FM. Ehi, ehi, ehi, voi là fuori? L'astronave di pane, burro e rock and roll è già decollata da 30 minuti. Obiettivo? Arrivare integri alle 9 del mattino, senza strabuzzare, poteva venirmi qualcosa di meglio, senza stramazzare sul banco mixer di Rock FM. Il vostro obiettivo è simile? Tentate di non stramazzare ovunque voi siate in questo momento. In queste prime tre puntate in molti si sono lamentati che siamo tornati in diretta senza avvisare, senza la dovuta comunicazione. Beh, ma siete voi che dovete sporgere la voce, fatelo sapere in giro. Dalle 7 alle 9 ci si sveglia con Rock FM, la colazione che crea assuefazione. Mio Dio, è pieno di stelle. Non l'avevo ancora detto nella nuova stagione. Sappiamo noi come svegliarvi nel giusto modo. Immagino i fortunati che hanno puntato la radiosveglia qui, perché si godono questa Baba O'Reilly, anche se io preferisco chiamarla Baba O'Reilly, fa più americana. Loro si chiamano The Who. era semplice, era l'indirizzo di Rock FM, via Locatelli 1, 20124 Milano. L'appello era altrettanto semplice, a causa di internet e degli sms la cartolina postale stava per morire. Beh, noi gli abbiamo fatto un bel elettroshock, come si suol dire. Si rischiava l'estinzione, ma noi l'abbiamo rianimata, grazie voi a voi. Voi l'avete rianimata e ci permettete giorno dopo giorno di viaggiare anche a settembre con i nostri radioascoltatori. Oggi sa dove si va, Freak? No, dove? Andiamo nel reparto cartolina postale della montagna. In una percentuale delle cartoline che ci sono arrivate, devo dire che tra mare e montagna... Ah, sicuramente ha vinto il mare. Ma la montagna ha sicuramente riscosso... Diciamo che ha resistito bene. Ha resistito bene. Molti dei nostri radioascoltatori ci sono andati. Partiamo da una montagna a Pasturo, in Valsassina, Lecco. Ah. Guardi qui che bel paese, Pasturo. Bello, Pasturo, sì, bello, Pasturo, bello. Pasturo, tra l'altro, è molto rock come nome. E la firma non è comprensibilissima. Forse potrebbe Luca? Essere una Lucia, sì, qualcosa. Luca. Auguri vivissimi e cordiali saluti. Vorrei che foste qui tutti e due e andata sul classico. Beh, sì, la formula è un po' classica. Io però le chiederei, per peggiorare la situazione, di dare un occhio al francobollo, che spesso crea delle sorprese. Anche questo, quello di quest'oggi è 100 anni di scautismo, che non è male. Beh, una malattia, sì, che ha un secolo di vita, infatti. Salutiamo l'amico o l'amica che è andata a Pasturo. Grazie, ciao. Ringraziando anche di averci fatto sapere che esiste una città che si chiama Pasturo. Sapremo dove andare la prossima volta. E restiamo, ci trasferiamo nelle Dolomiti per salutare Filippo, direi, che ci scrive in moto sulle Dolomiti. Una domanda per voi: ma andare a Cortina, notoriamente località da VIP, è davvero rocker oppure no? A mia difesa c'è il fatto che ci abita mio cugino, che è di qui. Freak, gli dica qualcosa. Beh, se uno va a trovare il cugino, diciamo così, che si contamina il meno possibile con i VIPs e la loro retorica, diciamo così. Per cui se uno poi arriva con la sua Harley e esatto, con la sua attrezzatura e con la sua filosofia, lo diventa rock. Tra l'altro, per aiutare il nostro amico Filippo, ci saluta dal gruppo d'ascolto Fatti Duri, OK Cortina, campioni d'Italia 2006-2007. Insomma, gruppo Fatti Duri sicuramente è un rocker. E mentre lascia ben sperare, certo. Proseguo intanto, mentre viaggiando, passando per il passo Tre Croci, mi sono detto: bello sarà riascoltare le vostre voci, e dal lago Misurina una promessa, vi ascolterò ogni mattina. Quasi un poeta. Bello, Filippo, dal grazie. Lago Misurina vi ascolterò ogni mattina. Esatto. Me la segno, me la scrivo. E poi una cosa che solitamente fa impazzire: si ricorda che non si poteva scrivere sopra e sotto nelle cartoline? Sì, se lo fanno sì, tutti. Sì. Lui scrive Clash Forever e Tracu Tracu Forever. Grazie. Tracu Tracu è decisamente avanti. Grazie Filippo e grazie agli amici che ci hanno spedito cartoline della montagna. Le leggeremo tutte. E siatene orgoglioni, anche un po' orgogliosi, voi state salvando la cartolina postale! Complimenti! fermatele. Stop your sobbing. Pretenders, 7:43 minuti primi. La diretta di Rock FM nel mattino si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. Di nuovo una buona giornata dalla voce dell'Ariele. Giustamente dedichiamo spazio alla lettura delle vostre cartoline postali, che così tante sono arrivate nei nostri studi. Cosa che faremo fino a quando le termineremo? Però sono troppe, sarà dura. Vedremo di inventarci qualcosa nelle prossime puntate, perché così non potremo andare avanti. Cioè finiremo a Natale del 2010. Ma avendo Fricantoni e Spadino a mia disposizione nella redazione, ci inventeremo sicuramente qualcosa di galattico. Vedo con piacere, grazie a un messaggio di Leo da Genova, che anche da quelle parti presumo tiri un bel vento, perché segnala figata. Stamattina si vede la Corsica da casa mia, merito del vento e di Pane, Burro e Rock and Roll. Viva il vento, io segnalerei. E sono pronto a sfidarvi tutti quanti ad una gara di aquiloni acrobatici, dove volete, quando volete. L'Ariele c'è, pronto a sfidarvi. In quanti di voi possiedono un aquilone acrobatico? In quanti di voi tengono l'aquilone acrobatico in macchina sempre, perennemente? Credo solo io, perché sono scemo. 335-100-7777, qual è il vostro gruppo d'ascolto? Che cosa state combinando? Altri saluti, andiamo a Livorno da William, che più che una strombazzata di Mr. Trombetta segnala avrei bisogno di qualcos'altro, ma non girerò la segnalazione per così, comune senso del pudore. Alle 8 precise sveglieremo la nuova tranche di radioascoltatori e radioascoltatrici con il brano prescelto per tenerci compagnia tutta questa prima settimana di diretta, ovvero Here Comes the Sun dei Beatles. Così annuncio che tra 15 minuti precisi andremo giù di Beatles, mi piace parecchio. Mentre adesso andiamo giù di Meatloaf, questa è Butt Out of Hell. Benvenuti nell'inferno, amici. Qui a Rock FM è sempre un inferno. We'll be right back. be damned, dancing through the night with you. Well, if I gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Dancing through the night, dancing through the night, dancing through the night with you. Oh, baby, you're the only thing in this world. Soleil Freak, ma io senza sapere chi è nato nel giorno nel quale trasmetto, ho sempre la colazione che mi si pianta lì. Sì, effettivamente manca qualcosa se nell'almanacco non diamo le notizie più positive, gioiose, oh, i nati. Si festeggia, un buon modo per festeggiare, fare compleanno. Esatto, i compleanni nati, nati del giorno, nati il 5 settembre. Con chi iniziamo oggi? Col grande Johann Christian Bach. Ma non era Sebastian Bach? Sebastian era il papà. Ah. Mentre Johann Christian Bach nacque nel 1735 ed era l'undicesimo figlio del grande Johann Sebastian Bach. Alla faccia dei figli, sì. Non stava solo a comporre Bach, direi di no. E non essendoci né televisione né radio né cinematografo, si sa come si occupava il tempo a quei tempi. Visto che lei ha iniziato con un compositore tedesco, io controbatto con un fuorilegge statunitense che nasceva il 5 di settembre dell'847, il mitico Jesse James. Ah, questo è un colpo basso, Jesse, il grande mitico Jesse James. Allora senta qua. Mi dica. Tra i nati del 5 settembre dell'anno 1939, io le ricordo il mitico Clay Regazzoni, ex pilota svizzero di Formula 1. E se io le controbatto con Orologiao, au au au, a lei chi viene in mente? Enrico! Enrico Beruschi, nasceva oggi il 1941. Auguri Enrico! Tanti auguri Enrico Beruschi! Ti immaginiamo inseguito dalla tua Margherita. Enrico! Un altro compleanno di quelli che non si possono tralasciare. Accidenti. 1946. Lo posso fare io? Lo faccio. Ci tengo. Ci tenghi? Ci tenghi, guardi. Il 5 settembre, ma del 1946, come già annunciato, nacque, venne al mondo Freddie Mercury, cantante inglese, leader dei Queen. Morirà, ahimè, di AIDS nel 1991. Ultimo compleanno, un amico di Rock FM che nasceva nel 1969, Dweezil Zappa. Dweezil, figlio del ben celebre padre Frank Zappa. Frank Zappa, il grande Frank. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Vivere oggi. Lavoro, impegni. E finalmente, perché ti vuoi bene.